veramente noi abbiamo proseguito l'occupazione che era stata, come dire, cominciata dagli studenti, ed adesso l'occupiamo noi e gli insegnanti. Quindi voi avete proseguito l'occupazione che era cominciata dagli studenti, ma loro erano ancora in occupazione? Loro hanno smesso l'occupazione e da questo momento l'abbiamo presa noi l'occupazione. Ah, ok. Quindi adesso la rivendicano gli insegnanti precari? Sì, gli insegnanti precari e gli insegnanti di ruolo, in continuità col lavoro degli studenti e in un rapporto di collaborazione con gli studenti che noi abbiamo sempre avuto, e vogliamo sempre lanciare un messaggio che le occupazioni degli studenti, le lotte che stanno portando avanti vanno allargate e generalizzate, e va coinvolto il corpo docente assumendosi pure le sue responsabilità in un certo senso. Quindi voi adesso stasera rimarrete lì in occupazione? Sì, rimaniamo lì, dormiremo qui e poi lanceremo tutta una serie di iniziative che ci porteranno insomma fino al 14 per appunto rivendicare che la scuola deve cambiare e che soprattutto è assurdo questo clima di intimidazione che si è creato nei confronti dei docenti rispetto alle occupazioni. Le circolari del ministro che dicono che i docenti non possono esprimersi sulla riforma, insomma siamo assolutamente contrari a questo clima di intimidazione e vogliamo che la lotta degli studenti venga appunto seguita, perché gli interessi appunto della scuola pubblica sono interessi di tutti. Che questa lotta andrà avanti, si radicalizzerà e che bisogna sollecitare appunto tutti gli insegnanti, tutto il corpo docente a solidarizzare con questa grande manifestazione, con questa grande prova di maturità che hanno dimostrato gli studenti.